L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale ospitiamo di nuovo a distanza di qualche anno con molto piacere il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano, responsabile scientifico del progetto Vento. Buonasera. Buonasera. Allora, professore, intanto che cos'è il progetto Vento? Che cosa vi proponete? Allora, il progetto Vento è il progetto di una infrastruttura ciclabile per il cicloturismo. È una dorsale cicloturistica che corre lungo il Po e congiunge Venezia con Torino, da qui l'acronimo Vento, Venezia-Torino. Sono 679 chilometri, di cui 632 proprio tra Venezia e Torino, e un'altra quarantina per congiungere Pavia con Milano lungo l'asta dei Navigli e dei Nardeschi. La bicicletta è un potente mezzo anche per muovere occupazione, lavoro e far conoscere l'ambiente. Di fatto il cicloturismo è una leva straordinaria che in questo momento in Europa sta portando il lavoro negli angoli sperduti delle pianure e delle montagne europee in modo importante, cioè si stima che il cicloturismo in Europa si accompagna a 44 miliardi di euro all'anno di indotto, quindi una cosa importantissima. In questo momento in Italia non abbiamo che pochissime esperienze di cicloturismo in alcune regioni, come il Trentino Alto Adige ad esempio, ma i nostri fiumi sono completamente privi di un'infrastruttura ciclabile protetta come quella che abbiamo disegnato e immaginato lungo il Po. Ora qui si tratta, ed è per questo che c'è di mezzo non solo per passione ma anche proprio per capacità tecniche e scientifiche il Politecnico, perché non si tratta di così disegnare lungo il Po un percorso su quelli esistenti, ma si tratta di progettare qualcosa che davvero i cicloturisti possano poi dopo fare piacevolmente. Che tipo di infrastrutture si progettano e sarebbero necessarie per realizzare al meglio questo progetto? Guardi, ciò che il cicloturista chiede è innanzitutto un'infrastruttura sicura, che non incontri mai le strade, quindi ciò che lui teme di più, l'automobile. Quindi vuol dire immaginare un tracciato con una pavimentazione, con gli incroci organizzati in modo tale che non si incontrino mai le automobili, quindi in sicurezza. Dopodiché bisogna disegnare i passaggi sul fiume. Il fiume Po non solo va attraversato, e noi lo attraversiamo in quattro punti, ma vanno attraversati tutti gli affluenti, quindi tutti i ponti, le passerelle per guadagnare la quota dei ponti e riscendere dall'altra parte, le piccole rotonde per i piccoli incroci tra la dorsale cicloturistica e le altre, come si chiama, le altre reti ciclabili. Queste vanno tutte progettate, tutte le abbiamo progettate, dimensionate, prezzate, con un lavoro che ha alle spalle un migliaio di chilometri di sopralluoghi fatti lungo il Po. Lungo il Po dove noi abbiamo cercato di utilizzare tutto quello che si poteva già utilizzare per abbassare le spese, quindi soprattutto di utilizzare gli argini maestri. Tutto Vento cerca al 50% corre lungo l'argine maestro. Questa è una cosa importantissima, anche perché noi l'abbiamo fatto recentemente ed è straordinario viaggiare sospesi tra cielo e terra, perché sull'argine maestro pedali a 5-7 metri di altezza, quindi hai un dominio del paesaggio e puoi goderti il paesaggio come non riesci a fare quando sei a quota zero, quota terra, quindi è un'altra cosa molto bella di questo percorso. Visto che stimate una cifra, una spesa, diciamo, per realizzare quest'opera di circa 80 milioni di euro, cosa manca? Facciamo qualche esempio agli ascoltatori. Mancano, guardi, la cosa più importante sono i passaggi, come dicevo prima, sui fiumi, il che non vuol dire che bisogna fare dei nuovi ponti, ma bisogna attaccare delle mensole, come in casa si attaccano delle mensole, bisogna attaccare delle mensole al bordo del ponte in modo tale da creare un passaggio dedicato alle biciclette. Ecco, l'infrastrutturazione dei ponti e il ponte ovviamente ha una quota maggiore rispetto all'argine, no? Perché deve passare sopra, quindi bisogna raggiungerlo dolcemente, con una salita dolce per i ciclisti, quindi questo è il pacchetto di opere più costose. Direi che una sessantina di milioni di euro vanno tutti nel riattrezzare i ponti e nel nel risolvere tutte quelle discontinuità di altezza tra il piano campagna e il piano dei ponti. Questa è la fetta più grossa, dopodiché noi abbiamo tutta la viabilità ciclabile urbana, perché noi passiamo anche all'interno di alcune città come Cremona, come Pavia, dove alcuni tratti di ciclabilità urbana esistono già, ma altri vanno ancora realizzati, quindi anche questa è una quota di spesa altrettanto importante, sempre per immaginare piste ciclabili separate completamente dal traffico. Ovviamente intorno a questo poi potrebbe crescere tutto un indotto, diciamo, no? Che sono i ristoranti, i punti di ristoro, questo però è un discorso che va più avanti. Intanto, come è stato accolto il progetto che voi avete presentato facendo proprio fisicamente questo percorso, quindi attraversando tutti i comuni che potrebbero essere interessati? Ma allora, la cosa è stata davvero straordinaria, l'accoglienza molto calorosa. Noi abbiamo fatto questo viaggio anche portando con noi un protocollo d'intesa che impegnava coloro che volevano firmarlo, le istituzioni che volevano firmarlo, le impegnava a guardare a questa infrastruttura come un'infrastruttura da mettere in agenda, come la prima cosa da fare o la prima cosa da sostenere per rivitalizzare il fiume Po. Molte province hanno firmato, Alessandria, Vercelli, Mantova, molti comuni hanno firmato, Cremona, Milano, Venezia, Torino, anche la provincia di Pavia, Casale Monferrato, e insomma alla fine siamo arrivati a 30-35 adesioni ufficiali di questo protocollo d'intesa, quindi una cosa importante che sta arrivando sulla scrivania del primo ministro Enrico Letta, proprio a chiedere al governo che ponga lo sguardo su questo tipo di infrastruttura, immagini che con questo tipo di infrastrutture si esce un po' dalla crisi, come ci ha scritto il Ministro del Turismo in un bellissimo messaggio che ci è arrivato il 2 giugno, perché il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, noi siamo arrivati a Venezia. Quindi il Ministro del Turismo già ha espresso un sostegno, diciamo. L'avete anche in parte dal Ministero dell'Ambiente, mi pare di capire, una manifestazione di grande interesse. Il Ministero dell'Ambiente, attraverso delle sue attività di divulgazione, ci ha contattato per andare a raccontare in alcune regioni le potenzialità delle infrastrutture cicloturistiche, proprio in quelle regioni che oggi faticano a trovare anche una quadra per generare nuovi posti di lavoro. In questo momento il settore del turismo è il settore che in Europa sta continuando comunque a crescere, il cicloturismo sta crescendo enormemente, come dicevo prima le stime sono di decine di miliardi di euro all'anno solamente sul cicloturismo, e quindi è evidente che anche il Ministero dell'Ambiente guarda questo tipo di infrastrutture che sono a impatto zero, perché sono a impatto zero e che voglio dire mettono anche a sistema tutte le nostre aree naturali protette. Pensate che lungo il Po noi attraversiamo una decina di parchi che in questo momento tra di loro non dialogano, non è possibile per un turista andare dal Parco del Ticino al Parco del Delta se non prendendo la macchina. Con una ciclabile come Vento può passare 3 giorni a fare bird watching o a godersi il Parco del Ticino e dopodiché può, dopo 4 giorni, ritrovarsi al Delta del Po a pescare o non so a fare cos'altro con le ciclabili che ci sono in questi due parchi, va bene, che in questo momento non dialogano tra di loro. Quindi è chiaro che anche il Ministero dell'Ambiente vede alle infrastrutture cicloturistiche una possibilità per valorizzare l'ambiente e il sistema della natura che in questo momento non trova ancora uno sbocco possibile per diventare appetibile per il turismo. Attualmente, così giusto per dare una speranza a chi ci ascolta, attualmente si può comunque fare questo percorso, voi l'avete fatto ovviamente con maggiore attenzione visti i passaggi critici di cui parlavamo prima, ad esempio sui ponti, però si riesce? Allora, si riesce, l'abbiamo fatto noi per carità, però bisogna essere minimamente esperti, perché da un lato ci sono delle condizioni di minimo pericolo, io penso il cicloturismo dovete pensare che è una cosa aperta dal bambino alla persona che non è per nulla esperta di biciclette, che decide dal lunedì al mercoledì di attrezzarsi e cominciare la sua avventura in bicicletta, quindi è chiaro che se uno non ha un po' di esperienza si ritrova sulla statale in questo momento insieme ai camion, che non è piacevole, oppure si ritrova a fare dei tratti non pavimentati sugli argini in mezzo all'erba che è alta 50 centimetri, piuttosto che la ghiaia un po' grossa che fa perdere di stabilità la bicicletta, perché le pavimentazioni per esempio sugli argini non sono curate alla stessa maniera. Infatti con questo abbiamo aperto un tavolo con l'AIPO, che è l'ente che si si preoccupa di curare la gestione degli argini, proprio per cercare di capire come arrivare a una manutenzione unitaria, con degli standard unitari su tutti gli argini in vista di un cicloturismo. Non fermiamoci davanti all'idea che, siccome è un itinerario possibile, siamo contenti così. In questo momento questo itinerario è possibile, ma non è frequentato da nessuno. Noi in 8 giorni abbiamo incontrato 2 cicloturisti. 2 cicloturisti ovviamente su 600 km non muovono nessuna economia, zero. Quindi se l'infrastruttura rimane così, non ne avremo 2, ne avremo 200 perché ne abbiamo parlato tanto, ne avremo 2000, ma ne abbiamo bisogno di 500.000. Questo è l'obiettivo. Speriamo di risentirci presto con buone notizie, insomma, che arrivino buone notizie. Siamo sicuri. Vabbè, si farà. L'ottimismo. Assolutamente, vedrà che si farà. Non farla vuol dire negare il 2.000 posti di lavoro, almeno 3.000 posti di lavoro, con solamente un investimento di 80 milioni di euro, che ricordo è il costo di un paio di chilometri di autostrada. Facciamo l'autostrada per le biciclette. Bravi. Che costa meno e fa bene anche all'economia. Grazie a Paolo Pileri, Politecnico di Milano, responsabile scientifico, come abbiamo detto più volte, del progetto Vento. A risentirci, a presto. Grazie, buongiorno a tutti voi.